Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Ci ha ripensato un'altra volta. Dopo discussioni, polemiche, proteste e marce indietro, scattano in questi giorni le nuove fasce di reperibilità per i dipendenti statali, quindi anche per insegnanti e personale ATA. Infatti il ministro della funzione pubblica si è molto arrabbiato quando ha visto che con la fascia di reperibilità allungata le assenze si erano ridotte di quasi il 40%. Con il ritorno invece alle sole 4 ore di reperibilità, le assenze erano tornate ad impennarsi. Ormai lo sappiamo tutti, ve l'abbiamo ripetuto fino alla noia anche qui su Radio 24, del resto lo vediamo anche a casa. I più colpiti da questa dannata influenza A sono loro, i bambini o comunque i ragazzi più giovani. Quindi le scuole sono alle prese con un'epidemia che non si ricordava da tempo. Classi dimezzate, insegnanti a casa e genitori preoccupati. Ci siamo fatti un giro su e giù per l'Italia per sentire un po' come stanno gestendo l'emergenza quelli in prima linea, insegnanti e presidi. Vi ricordate, a settembre finì su tutti i giornali alla vigilia della riapertura delle scuole: non baciatevi, non abbracciatevi al rientro dalle vacanze. Quest'anno non è davvero il caso, visto l'incombere dell'epidemia da influenza A. Epidemia che poi di fatto è arrivata. Stiamo parlando di Mario Rusconi, preside del liceo Newton di Roma. L'ha intervistato Adriana Fracchia. Per citare i latini, io insegnavo latino e greco quando ero insegnante, ex malo bonum, nel senso che all'inizio la presupposta ventilata pandemia sembrava potesse essere pericolosa, grave, eccetera. Adesso sinceramente non capisco che cosa sia, perché i messaggi sono talmente confusi che anche una persona di media cultura, anche se non scientifica, capisce ben poco. Però all'inizio noi ci siamo allertati e ci è servito, ecco, ex malo bonum, ci è servito per poter dire ai ragazzi, alle famiglie: guardate, cerchiamo di attuare nella scuola, nel liceo Newton, delle condizioni igieniche migliori, per cui maggiore attenzione da parte dei bidelli nelle pulizie anche dei bagni, delle classi, eccetera, e soprattutto dotiamo ogni bagno di tutti i dispenser, sia della mucchina, sia della carta igienica, sia dei tovaglioli per asciugarsi le mani, perché in effetti, incredibile ma vero, moltissime scuole, soprattutto del centro-sud, non hanno questi strumenti, diciamo così, igienici fondamentali, e non li hanno per il semplice fatto che non hanno i soldi per poterli comprare. Ci siamo anche in qualche modo serviti di questa campagna per allertare i genitori, e i ragazzi hanno portato un euro a testa, che non è bastato, ma insomma è stato però abbastanza significativo l'intervento delle famiglie per poter disporre per tutti e 1200 studenti. Poi, ironia della sorte, nel momento in cui abbiamo trovato i soldi, li abbiamo presi, abbiamo contattato le ditte, abbiamo avuto i preventivi, è venuta una ditta, il giorno dopo si sono ammalati tutti gli operai della ditta di influenza, quindi evidentemente è una, che ne so, una vendetta di Montezuma, come si direbbe. Le assenze in questo periodo sono numerose, ci sono tante classi decimate o no? Su 1200 alunni abbiamo calcolato il 25% di studenti assenti, però con picchi maggiori soprattutto nelle classi dei più piccoli, e poi una certa frequenza, diciamo così, percentuale di insegnanti che si è ammalata, anche perché, pur essendo questo un liceo del centro storico di Roma, a persone piuttosto giovani come insegnanti, quindi con bambini piccoli, ed è costante che un insegnante mi venga a dire: sa, mio figlio ha la febbre, il giorno dopo prende il secondo figlio, il terzo giorno anche l'insegnante. Quindi l'unica categoria che rimane imperterrita sono i bidelli, che viva Dio non se ne è ammalato neppure uno, quindi evidentemente hanno fatto un patto col diavolo. Invece, per quanto riguarda la campagna vaccinale, vi siete vaccinati o? No, la maggior parte, sto sentendo che non fanno il vaccino. C'è molta diffidenza, anche perché quando io chiedevo perché, ma come curiosità mia intellettuale, mi rispondevano: sono talmente confusi i messaggi che mandano la televisione e i giornali che preferiamo non farlo. Infatti molti miei amici medici, nessuno di loro ha fatto il vaccino. Ci sono stati, a parte episodi curiosi di persone che le hanno fatto delle richieste strampalate, non so, oppure genitori troppo ansiosi che l'hanno magari assillata con... Ma sì, guardi, questo è una cosa invece invece mi è successo da miei colleghi presidi, col fatto che io sono anche presidente dei presidi romani, e mi stanno tempestando di telefonate e penso siano in buona fede, che non siano, diciamo, maliziose, perché qualcuno potrebbe vederci la malizia. Dice: ma le dobbiamo dare, parliamo delle scuole medie superiori, le dobbiamo dare le assemblee agli studenti, perché in un'assemblea, in un'aula magna che magari contiene 200 studenti, dal punto di vista, diciamo così, logistico, ce ne sono 400-500, e quindi quello diventa un grande veicolo possibile, probabile, di infezione. E io ho detto che non è che si può fare il cordone sanitario intorno alle manifestazioni democratiche ammesse per legge ai nostri studenti. Una curiosità da segnalare? Ma guardi, l'ho detto, la curiosità maggiore è che i miei bidelli imperterriti vengono a scuola, alcuni pure da lontano, da Roma, e non si ammalano neppure un momento, poverini. Penso sia che magari la selezione della razza li abbia resi più forti, sia col fatto che, siccome è previsto che anche in caso di malattia, col decreto Brunetta, quello precedente, non quello attuale, debbano essere tolti alcuni euro per ogni giorno di malattia, anche malattia documentata, probabilmente avendo anche stipendi molto bassi cercano di venire anche se sono un po' raffreddati, insomma. Però ecco, ho visto dei ragazzi anche in maglietta, un ragazzo che è venuto giorni fa, a Roma non fa particolarmente caldo di questi tempi, che è venuto proprio con la t-shirt, come se fossimo in pieno agosto. È un ragazzo, un bel ragazzone di quarto anno. Quando gli ho chiesto, dico: figlio mio, ma se tu vieni vestito così l'influenza è dietro l'angolo, te la prendi subito? E lui mi ha detto, dice: no, io penso proprio che, anzi, in questo modo la combatto, perché io mi tempro come Mitridate, insomma, col veleno. Insomma, l'ho trovata una cosa abbastanza, come dire, insolita e divertente. In compenso, ecco, una cosa positiva del freddo e dell'influenza è che non si vedono più pancini al vento dei ragazzini e delle ragazzine più piccole, che sono quelli che, presi dall'ebbrezza di arrivare al liceo, vengono vestiti in maniera un po' modaiola, e che adesso, con questo freddo, con il timore dell'influenza, evidentemente vengono un po' ragguagliati dalle famiglie, che è il modo migliore per prendersi un infreddamento, insomma. Dunque, questo è quanto succede a Roma, dove la paura dell'influenza ha quantomeno fatto sparire le pance al vento con una certa soddisfazione del preside, come abbiamo sentito. Ma spostiamoci più giù, spostiamoci in Campania, la regione più colpita dall'influenza, per ragioni, dicono gli esperti, dettate assolutamente dal caso. Abbiamo sentito su questo il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Alberto Bottino, il quale però smentisce categoricamente che la Campania sia appunto la regione più colpita. Bottino, pensate, parla di 193 casi segnalati nelle scuole di tutta la provincia di Napoli. Non vi faccio sentire l'audio di questa parte di intervista, perché è stato un tira e molla noiosissimo su questi numeri. Le classi sono dimezzate in tutta Italia, non si capisce perché a Napoli debbano parlare di soli 193 ragazzi malati di influenza A in tutta la provincia, e poi come si fa a dire se sia davvero influenza A? Quanti dei ragazzi e bambini che sono a casa si è fatto davvero il tampone per verificarlo? Detto questo, tutto a posto a Napoli, dunque, secondo il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Alberto Bottino, in attesa della vera emergenza. Per quanto riguarda questa regione, già da tempo, diciamo da 20 giorni, abbiamo fatto delle conferenze di servizio per ogni provincia, chiamando al tavolo dei relatori dei componenti nuovi emergenti dell'ASL. In quell'occasione abbiamo risposto a tutte le domande dei dirigenti scolastici, abbiamo dato dei consigli e abbiamo anche distribuito un CD sul quale nel cui emergenze l'ASL avevano inserito tutte le ragioni, tutti i consigli, tutti i fenomeni e anche l'aspetto scientifico di queste influenze. Quindi siamo molto vicini alle scuole. Le scuole sono state aggiornate, messe a conto di quanto stava succedendo e soprattutto come comportarsi quando succedono questi casi. Mi auguro che sia questa la parte critica, temo che non sia questo il momento critico. Quando dovesse arrivare un momento critico, ritengo che siamo pronti per far fronte, almeno sotto aspetto organizzativo, per l'amor di Dio, perché sotto aspetto sanitario io non c'entro niente, però faccio la mia parte come ufficio scolastico regionale. C'è qualche scuola che le chiede la chiusura? In questo momento, ad oggi, che io sappia, ha chiuso le scuole Pompei, chiuse le scuole Pompei per via di quel dramma di quella ragazzina che tra l'altro era una luna di Scafati e neanche di Pompei, ma abitava a Pompei. Quindi, come vedete, l'allarme sociale ha creato condizioni diverse. Un altro comune del Casertano ha dato disposizione di chiudere le scuole, ma a suo tempo, ma un paio di giorni, per fare una disinfestazione che alla fin fine, mi permetto di pensare, non sono un medico, ma che non serve a niente, perché l'H1N1 non viene tolta via con una disinfestazione, ma viene chiaramente trasmessa attraverso il soggetto che ha l'infezione. Come vi state preparando? Perché insomma si dice che il peggio non sia ancora arrivato. Ma, ripeto, credo che, a parte chiaramente, speriamo mai più casi mortali, che a quanto pare riguardano persone che sono già malate per altro titolo, anche gravemente, noi siamo sufficientemente sereni, stiamo dando tutti i consigli, stiamo facendo in modo che l'igiene sia padrona, facciamo in modo che i contatti siano il meno possibile o perlomeno più igienici possibile, stiamo dando consigli continuamente, siamo allertati continuamente con le scuole, abbiamo rapporti continuamente con le scuole. Penso che se dovesse venire il punto di crisi dovremmo solamente rinforzare questi contatti, quindi credo che non ci sarà il dramma della preoccupazione senza limiti, il panico senza ragione. È tutto, potete riascoltare questa puntata cliccando su radio24.it, ci risentiamo sabato prossimo.